Salva Danaio di Deborah Rosciani. Ritrovati a Salva Danaio da Deborah Rosciani, buona giornata a tutti. Oggi parliamo di fisco e precisamente torniamo ad affrontare il tema degli strumenti messi a punto per intercettare eventuali casi di evasione fiscale. Nello specifico oggi ci concentreremo su uno di questi mezzi, il cosiddetto spesometro. Avrebbe dovuto attivarsi dalla prossima settimana con l'inizio del mese di maggio, ma il termine è stato fatto slittare al 1 luglio, quindi i commercianti avranno un po' più tempo per prepararsi con tutti gli adempimenti del caso all'introduzione di questo strumento, ma anche per prendere nota di alcune novità e modifiche che verranno introdotte rispetto al regolamento per il suo funzionamento che era stato prospettato solo fino a qualche settimana fa. Quindi, oltre a scoprire i cambiamenti previsti, torneremo a presentarvi il funzionamento di questo sistema che obbligherà consumatori e commercianti a segnalare, poi vi diremo come, ogni spesa superiore a 3.600 euro. Questo con l'obiettivo di mettere in atto un incrocio di dati e verificare se lo stile di vita di una persona, almeno per ciò che raccontano le sue spese, sia coerente con il reddito che dichiara. Nel concreto questo provvedimento obbligherà il consumatore intenzionato a sostenere una determinata spesa, una spesa di questo tenore, a portare con sé il codice fiscale, a presentarlo al commerciante in modo che il commerciante possa procedere a schedare, tra virgolette, l'acquisto. Come funzioneranno i controlli? Cosa succederà a chi verrà indicato come soggetto a rischio evasione? Quindi come farà anche il commerciante a segnalare queste posizioni? A chi le deve segnalare? Stamattina ci aiutano ad addentrarci nel funzionamento di questi meccanismi. Intanto il collega del Sole 24 Ore, Marco Bellinazzo, che tutte le volte che parliamo di questo argomento lo convochiamo, ormai sarai diventato, Marco, il terrore dei nostri ascoltatori. Buongiorno. Spero di no, saluto tutti quelli che ci ascoltano. No, anche perché le ultime, ho rifatto il controllo delle ultime puntate nelle quali avevamo avuto il piacere di averti nostro ospite, avevamo parlato con te di nuovo di spesometro in occasione di Telefisco, ma anche di Perseo e di tutti gli altri strumenti servono all'amministrazione finanziaria, alla Guardia di Finanza per appurare l'esistenza di eventuali casi di evasione fiscale, quindi insomma anche per questo lo dicevo. Comunque stiamo scherzando ovviamente, Marco tra l'altro anche per la sua chiarezza nell'esposizione di determinati concetti a volte un po' ostici, per cui lo abbiamo con noi molto volentieri. Così come abbiamo di nuovo con noi molto volentieri il nostro consulente tributario preferito Nicola Forte, buongiorno. Buongiorno a tutti i radioascoltatori, buongiorno a te. E anche un altro esperto in materia fiscale per il Sole 24 Ore che è Giovanni Valcarenghi, che saluto. Valcarenghi, buongiorno e bentornato anche lei. Buongiorno a tutti anche da parte mia. Allora, 800 24 00 24, il numero verde per le domande in diretta che vorrete porci per capire qualcosa di più rispetto sia alle motivazioni di questo rinvio ma soprattutto al funzionamento dello spesometro, come si relaziona anche agli altri strumenti di accertamento del reddito, il redditometro. Ne abbiamo parlato anche di questo in altre circostanze. Se invece volete scriverci potete utilizzare gli altri sistemi, il 349 238 6666 per i vostri sms, oppure l'indirizzo del nostro programma salvadanaio @radio24.it. Un'occhiata alla borsa: oggi è una giornata molto importante perché c'è la riunione della Banca Centrale Americana e questa non è una novità perché insomma la riunione si tiene mensilmente. Non dovrebbero esserci variazioni di politica monetaria questa sera, nel senso che i tassi di interesse dovrebbero essere mantenuti fermi dalla Federal Reserve al netto di sorprese clamorose, ma questa per la prima volta appunto nella sua storia la Banca Centrale Americana comunicherà la sua decisione sui tassi alle 12.30 ora americana, quindi 18.30 ora italiana, ma soprattutto in genere la decisione viene comunicata alle 20.15. Alle 20.15 invece partirà la conferenza stampa del presidente della Fed Bernanke, ed è la prima conferenza stampa della storia da parte della Federal Reserve, e lo dicevamo prima anche nel corso del giornale radio, è un appuntamento molto importante, il mercato lo guarda con grande attenzione perché si vuole capire se sarà messa in atto la cosiddetta exit strategy da parte della Fed, cioè l'uscita dal complesso di misure espansive messe in atto per gestire negli ultimi 4 anni l'imponente crisi economico-finanziaria che ci ha travolto un po' tutti. L'Europa oggi In attesa di questo appuntamento, guarda anche le numerose trimestrali che sono state diffuse. Oggi abbiamo avuto i dati, per esempio, della banca britannica Barclays. Abbiamo avuto i dati di Ericsson, il numero uno mondiale delle reti di telecomunicazioni mobile, che ha archiviato il primo trimestre con un utile netto più che triplicato, cogliendo le sorprese degli analisti. Abbiamo avuto i dati di Volkswagen, quindi bene anche oggi il settore auto, e quindi oggi si mettono un po' da parte di nuovo i timori per una eventuale ristrutturazione del debito greco, dopo che ieri i rendimenti pagati dai titoli di Stato greci sono volati a nuovi massimi storici. Piazza Affari guadagna un punto, spicca su tutte le altre piazze grazie ai dati di Buzzi Unicem, più 2,86%. Il gruppo beneficia delle prime stime sui conti del trimestre, che verranno pubblicati per la verità il 13 maggio, ma evidentemente le indiscrezioni sono positive. Il titolo viaggia a ridosso dei 10 euro. Fiat Industrial più 2,73, tra l'altro ricordando che Fiat è sotto la lente di Moody's per un possibile taglio del rating, ma i titoli in borsa oggi non ne sono più di tanto preoccupati. A2A più 2,70%, Banco Popolare più 2,71%, Mediolanum più 2,11%, Tozze più 1,83%, situazione abbastanza tranquilla oggi per Parmalat, più 0,23% a 2,56€. Il titolo ieri è letteralmente volato, ovviamente si è avvicinato al prezzo offerto dai francesi di Lactalis per l'offerta pubblica d'acquisto totalitaria sul capitale di Collecchio, mentre il mercato boccia i dati di STM, meno 3,50% per il titolo in borsa, seguita a distanza dal calo di Enel Green Power, meno 0,86%. Euro su dollaro a 1,4664. Questa è la borsa di oggi. Noi invece andiamo al tema che abbiamo scelto per il nostro approfondimento. Parliamo del rinvio dello spesometro. Entrerà in vigore il 1 luglio il nuovo sistema di controllo dell'Agenzia delle Entrate contro l'evasione fiscale, battezzato con il nome di spesometro, che metterà sotto la lente di ingrandimento i pagamenti al di sopra di 3.600 euro. Slittano quindi i termini inizialmente fissati al 1 maggio per comunicare al fisco i dati relativi agli acquisti di beni e servizi per i quali, pur superando questa soglia, non è prevista l'emissione di fattura. Lo strumento controllerà in automatico la capacità contributiva degli italiani alla ricerca di furbetti e furboni. Lo spesometro, infatti, altro non è che un sistema informatico che consentirà al fisco di controllare le spese effettuate dai singoli cittadini e attivare gli accertamenti fiscali sui potenziali evasori. Tradotto in termini pratici, più sono i consumi di un determinato contribuente, maggiore deve essere il suo reddito per poterli sostenere. Per esempio, se un contribuente dichiara 30.000 euro di reddito e nello stesso anno effettua 50.000 euro di spese, verrà indicato tra i soggetti a rischio evasione e dunque sarà soggetto ai controlli da accertamento sintetico. I 60 giorni che ci separano dall'attivazione del sistema consentiranno probabilmente all'Agenzia delle Entrate di effettuare alcuni ultimi ritocchi. Potrebbero ad esempio essere esclusi dagli obblighi di comunicazione tutti gli acquisti effettuati con moneta elettronica. 800240024, il numero verde per i vostri interventi. In alternativa potete scriverci, e ne stanno già arrivando parecchi, messaggi al 349-238-6666 o delle mail un po' più articolate, l'indirizzo salvadanaio@radio24.it. E un po' il tenore degli sms è lo stesso tra tutti quelli che ci stanno scrivendo, perché si stanno sollevando dei timori fra i contribuenti. Tutti adesso pensano di non poter più fare con tranquillità qui e transazioni commerciali, perché tutti si ritengono a rischio di controllo fiscale, ma non è esattamente così, perché le verifiche hanno bisogno di molti altri presupposti, non solamente il fatto di fare un acquisto superiore a 3.600 euro. Per esempio, c'è proprio un ascoltatore che ci scrive: ma insomma, io ho comprato un gioiello per mia moglie, la prima cosa che mi è stato chiesto è se volevo la ricevuta, cosa serve questo provvedimento? Un altro ascoltatore dice: un altro incentivo per accordare il nero con i commercianti. Speriamo di no. Marco Bellinazzo, riparto con te proprio per farti la prima domanda di rito, che è quella che ti faccio ogni volta che affrontiamo questo argomento. Che relazione c'è fra lo spesometro e gli altri strumenti di accertamento del reddito che già conosciamo, come per esempio con il redditometro, che se non sbaglio a marzo avrebbe dovuto entrare in vigore in un nuovo formato, in una nuova veste? È sparito anche il redditometro. Ah, bene. Mi verrebbe da dire, ma al di là della provocazione, se mi dai pochi secondi, insomma, te ne do anche di più. Di rispondere insomma nel dettaglio alla tua, domanda, vorrei fare una riflessione, lanciare una provocazione se vuoi, legata alle voci che si raccolgono un po' tra gli addetti ai lavori, perché qualcosa evidentemente non sta funzionando, o in chi dal punto di vista tecnico deve mettere a, diciamo, in funzione questi nuovi strumenti, lo spesometro come il redditometro, oppure forse c'è stato qualche difetto di comunicazione. C'era stato detto a proposito del redditometro che sarebbe stato pronto una specie di software prima che si fossero poi realizzate le dichiarazioni che tutti i contribuenti italiani stanno facendo in questi giorni, perché in qualche modo doveva servire a misurare il proprio livello di reddito e dunque a non sbagliarsi. Dalla compliance doveva arrivare un forte incremento di gettito. Di fatto il redditometro, che doveva essere pronto per marzo-aprile, non è più pronto. Lo spesometro doveva entrare in vigore il 1 maggio e di fatto è slittato di 2 mesi. C'è chi dice appunto che forse ci sono le elezioni in ballo e comunque si è voluto spaventare gli elettori. I contribuenti ricchi che magari danno una mano a qualche politica in qualche campagna elettorale non vogliono essere messi in difficoltà. Vabbè, questa è una provocazione molto, molto banale. Però insomma tutto sta partendo con ritardo, Marco, il senso è questo. Il problema è questo, di fatto per rispondere ora alla tua domanda sinteticamente, lo spesometro è uno strumento in più che serve all'Agenzia delle Entrate per avere più dati e da mettere poi in relazione nell'ambito di un accertamento e misurare se quelle spese che si sostengono sono compatibili con il reddito che si dichiara, niente di più e niente di meno. Quando partirà tutto il sistema vedremo poi in che termini l'agenzia potrà applicare questi strumenti e con quale severità. E infatti, allora Nicola Forte, ritorno subito da lei perché nelle altre puntate in cui l'abbiamo invitata sempre a spiegarci un po' i termini della questione di oggi ci aveva aiutato a capire qual era la normativa di riferimento per chi volesse approfondire origine e termini appunto dell'introduzione dello spesometro. In realtà però le chiedo le motivazioni per cui invece l'Agenzia delle Entrate ha diramato questo provvedimento con cui spiega ai commercianti le motivazioni per cui tutto viene rinviato al 1 luglio, perché il tema è proprio quello, consentire ai commercianti di preparare gli adempimenti amministrativi in vista del monitoraggio dei dati da trasmettere poi all'amministrazione finanziaria. Verranno dotati di un software più accurato? Qual è il tema che... Ah, ecco, intanto abbiamo saputo che Nicola Forte è caduto, però posso immagino girare la stessa domanda a Giovanni Valcarenghi. Perché questo rinvio al 1 luglio? Certamente sì, allora da quanto risulta diciamo c'è una necessità di un attimo di meditazione proprio sul tema dei pagamenti con carta elettronica come rappresentato nella scheda che abbiamo sentito prima, quindi questo intervento non può essere fatto dal punto di vista interpretativo dall'Agenzia delle Entrate, probabilmente si dovrà intervenire a livello normativo e quindi anche il maggior termine reso a disposizione dovrebbe servire proprio per questo intervento correttivo. Peraltro ricordo, per completare il ragionamento che faceva prima Marco, che dal punto di vista operativo teniamo presenti che i dati dall'Agenzia delle Entrate sono utilizzati sul periodo d'imposta, quindi conoscere le informazioni dal 1 di luglio del 2011 piuttosto che dal 1 di maggio del 2011 significherà semplicemente un minor numero di dati a disposizione sull'anno che stiamo vivendo oggi, quindi anno 2011, ma che dovranno comunque essere utilizzati alla chiusura del periodo d'imposta e non prima. Ecco, insomma. Allora, noi dobbiamo andare già a fare la nostra prima pausa. Non appena riprendiamo però la trasmissione comincio subito a far sbizzarrire i nostri ascoltatori che ci chiedono ovviamente molti dettagli rispetto al funzionamento di questo strumento di accertamento, non tanto del nostro reddito, ma insieme agli strumenti di accertamento del reddito, lo strumento di accertamento delle spese che si sostengono, appunto, perché in molti ci chiedono intanto, visto che abbiamo dato questo limite, 3.600 euro, ci chiedono se per esempio questo limite riguarda un singolo acquisto in un unico negozio oppure il totale degli acquisti che in quel negozio si possono fare. Banalmente è chiaro che in un supermercato nell'arco di un anno una famiglia spende molto di più e allora saranno tracciati e accumulati tutte le stesse operazioni appunto che portano poi a quell'importo, ci chiede Claudio. E poi un altro ascoltatore: se uno ha un piccolo reddito ma un grande patrimonio, quindi anche quello va considerato. Ci sono tanti aspetti da chiarire, abbiate un minutino di pazienza, torniamo tra pochissimo. Eccoci Ben ritrovati in diretta, ancora buongiorno da Deborah Rosciani. Oggi parliamo a Salvadanaio dello spesometro, parliamo della rosa, degli strumenti messi a punto per intercettare, sgominare, scoprire i casi di evasione fiscale. Lo spesometro in sostanza è quello strumento che l'amministrazione fiscale sta predisponendo con un rinvio al 1 luglio per la sua partenza, per monitorare effettivamente le spese dei contribuenti, metterle in relazione alle dichiarazioni di redditi accertate e capire se si verificano evidentemente delle incongruenze tali da così far accendere un faro su questi contribuenti da parte del fisco e quindi fare degli accertamenti. Poi non è detto che, ovviamente, questo è un po' il messaggio che sta passando, speriamo di chiarirlo un po' meglio, che tutte le spese superiori a determinate soglie vengano messe sotto questa lente di ingrandimento. I presupposti per far attivare poi i controlli da parte del fisco sono altri, sono più articolati. Di sicuro questo è uno dei tanti elementi che può aiutare l'amministrazione fiscale a monitorare con attenzione il comportamento dei contribuenti. Abbiamo recuperato Nicola Forte? Sì, eccoci qua, Nicola, buongiorno ancora. E quindi ecco, vorrei ritornare un po' ad tranquillizzare i nostri ascoltatori, perché adesso in molti ritengono, ma insomma è chiaro che io, per esempio, frequentando abitualmente un centro commerciale nel corso dell'anno, presso quel centro faccio delle spese molto più ampie, molto più alte di 3.600 euro, quindi chi mi dice che per esempio non venga monitorato il mio comportamento presso quel sito? Hanno un timore giustificato i nostri ascoltatori? No, possono assolutamente stare tranquilli. Tra le altre cose, la relazione tecnica di accompagnamento al provvedimento chiarisce espressamente che il limite di 3.600 euro deve essere riferito alla singola operazione. È assolutamente consuetudine che gli acquisti in un centro commerciale, in un supermercato, vengano frazionati proprio in relazione a quelle che sono le normali esigenze familiari. Non è un frazionamento fatto ad hoc scientemente per cercare di sfuggire ai controlli, rimanendo per le singole transazioni al di sotto della soglia di 3.600 euro. Anche se poi, sotto questo profilo, il provvedimento del 22 dicembre puntualizza espressamente che le operazioni tra di loro collegate devono essere ricondotte nell'ambito di un'unica operazione, cioè si vuole fare attenzione o prestare attenzione a comportamenti di coloro che scientemente, appunto, che con l'intento di sfuggire ai controlli del fisco frazionano una determinata operazione per mantenersi sotto la soglia. Ma quando si tratta, ripeto, di transazioni che normalmente si ripetono nel corso dell'anno, i radioascoltatori possono assolutamente stare tranquilli. Allora vi faccio sentire, lo dico a Nicola Forte, Giovanni Valcaringa e Marco Bellinazzo, che sono con noi questa mattina, già le prime riflessioni verbalmente espresse dai nostri ascoltatori, cominciando con Gianluca dalla provincia di Milano, che in qualche maniera tocca anche l'aspetto che abbiamo già avuto modo di chiarire parzialmente adesso con Nicola Forte, quindi, come dire, spese fatte in un determinato arco temporale. Gianluca, buongiorno. Buongiorno. No, ecco, volevo esprimere un po' la mia perplessità sulla possibilità, appunto, dello spesometro di riuscire un po' effettivamente a controllare le spese, cioè, visto che il limite dei 3.600 euro è riferito al singolo acquisto, mi sembra abbastanza semplice poter, appunto, aggirare, cioè 3.600 euro mi sembra una soglia abbastanza elevata, no? se lo scopo è quello, appunto, di voler poi andare a scoprire evasori fiscali, insomma, all'interno dei 3.600 euro, insomma, si riescono, rientra tutta una ampia gamma di acquisti e di spese. Gianluca, la ringrazio, sentiamo un po' cosa ne pensano i nostri ospiti. Marco Bellinazzo, c'è stata discussione intorno all'individuazione di questa soglia massima per far scattare i rilievi dello spesometro quando la misura è stata in qualche maniera costruita? Ovviamente se ne è discusso, è chiaro che è una soglia elevata, anche perché stiamo parlando, appunto, delle operazioni fatte con i consumatori finali, mentre lo spesometro tra imprese ha una soglia, diciamo, di 25.000 euro ed è già in funzione quello, ma il problema è che tutto va poi visto nell'insieme degli strumenti che il fisco ha a disposizione. Per esempio, le spese nel supermercato dovrebbero rientrare poi nel concetto di redditometro, cioè in quel coefficiente che verrà applicato al reddito presunto sulla base del componente familiare, del quoziente familiare, chiamiamolo in questo modo. Dunque è nell'insieme di questi strumenti che poi il fisco pescherà quello più adatto al singolo caso. È chiaro che con quella soglia si punta agli acquisti di beni di lusso, ecco. Giovanni Valcarenghi, allora ammettiamo, come dire, che il fisco abbia acceso il suo riflettore, puntato il suo riflettore su una determinata rosa di spese effettuate da un contribuente, perché queste spese non risultano esattamente coerenti con la dichiarazione dei redditi, con il reddito appunto dichiarato all'amministrazione fiscale. Come, in che maniera, in che termini scatta il rilievo del fisco, il controllo del fischio, il richiamo del fisco mi viene, quindi come fischia il fisco in questo caso? Beh, diciamo che si formano le cosiddette liste selettive dei soggetti interessanti, tra virgolette, per l'amministrazione finanziaria, e con questi soggetti verrà attivato un confronto, un contraddittorio, nel quale viene chiesta motivazione, spiegazione di questa anomalia che viene riscontrata dall'archivio informatico dell'agenzia. Ricordo che, anche per tranquillizzare chi ascolta, le spese possono essere sostenute e giustificate sulla base di un reddito prodotto, ma anche sulla base di un precedente patrimonio accumulato, oppure semplicemente con l'indicazione che i quattrini che io ho speso mi sono stati prestati da una banca, da una finanziaria, da un altro soggetto che ha consentito a me di dimostrare quella, di effettuare materialmente quella spesa. Quindi insomma, il controllo può anche scattare, ma non è detto che lo si possa chiarire, si possa chiarire la propria posizione in termini molto molto semplici. Assolutamente sì, e quindi sia con il reddito, ma anche con la disponibilità di denaro, anche con il prestito di denaro fatto da terze persone. Ovviamente il tutto deve essere documentato. Ecco. Certo, ecco, infatti, tra l'altro, Marco Bellinazzo, torno a te, perché mi ricordo che l'ultima volta che abbiamo parlato di questo argomento, la tua ultima raccomandazione, che non avevo lasciato neanche farti esprimere in maniera molto accurata perché non avevamo più tempo, era proprio quello di, come dire, invitare gli ascoltatori, i contribuenti, gli acquirenti di qualsiasi cosa, a mantenere tutta quanta la documentazione di cui si può disporre, no? Cerchiamo di non buttare via, chiaramente, non dico gli scontrini della spesa, ma tutto ciò che attiene magari a acquisti di un determinato importo, che magari ci servono anche per la dichiarazione dei redditi, perché se facciamo una ristrutturazione della casa ci servono anche per gli sgravi fiscali in quel senso, però anche tutto il resto, in vista di un possibile anche, come dire, controllo fiscale, teniamo tutto da parte. Esatto, Deborah, quello che dobbiamo far passare, a mio avviso, è questo tipo di messaggio, cioè un messaggio allarmistico, ma allo stesso tempo un messaggio rivolto a un cambiamento di abitudine che i contribuenti devono avere, non solo per quelle che sono ovviamente le spese, ma anche per le voci di entrata, cioè devono essere pronti a giustificare determinate spese se in un certo anno hanno effettivamente poi sostenuto dei costi importanti per ristrutturazioni, piuttosto che per l'acquisto di un gioiello, per una vacanza importante. Semmai io farei una riflessione sulla questione delle carte di credito. Ecco, che è quello, come dire, è il perno intorno al quale è ruotato anche il rinvio al 1 luglio, se non ho capito male. Esattamente, perché il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Befera, ha in più occasioni appunto sostenuto che per evitare un aggravio ai contribuenti, quei dati che in qualche modo il fisco aveva già a disposizione, come le spese tracciabili fatte con moneta elettronica, dovevano essere in qualche modo esclusi dal monitoraggio dello spesometro. Per cui, in poche parole, si è detto: se uno paga con carta di credito, quei dati in qualche modo sono già disponibili, già tracciabili, e dunque è inutile che io consegni il mio codice. Quindi, per esempio, se vado a comprare il televisore al plasma da 4.000 euro e lo pago con la carta di credito, significa che dal 1 luglio in avanti il commerciante non mi chiederà il codice fiscale per dimostrare la spesa che ho fatto all'amministrazione fiscale? Al momento lo chiederà, ecco. Poi con un veicolo legislativo, che potrebbe essere questo decreto sviluppo atteso per la prossima settimana, sarà fatta la modifica, in quel caso no. Però ecco, io notavo una contraddizione tra questa forma di alleggerimento dello spesometro e le finalità con cui era stata annunciata, perché credo sia esperienza comune, insomma, certi acquisti ormai non si fanno più in contanti, l'uso delle carte di credito è quasi scontato in questi casi. Ora, una cosa è che l'amministrazione finanziaria possa avere a disposizione in maniera automatica tutte le transazioni legate all'utilizzo di carte di credito, altra cosa invece è escludere dallo spesometro, perché in quel caso per recuperare recuperare quei dati bisogna procedere a indagini finanziarie, insomma il procedimento è più complesso e dunque potrebbe venir meno la valenza stessa dello spesometro, insomma. Allora, alla luce anche di tutte queste perplessità che state facendo, anche un po' come professionisti facendo emergere, non vorrei che dal primo luglio ci trovassimo ad avere un altro rinvio. Detto questo, Nicola Forte, noi peraltro già adesso, prima nel ragionamento che facevo con Valcarenghi, ho affrontato tutta una fase molto successiva rispetto a tutto l'impianto che si sta mettendo in moto, perché invece quello che ci interessa capire adesso è come mi dovrò interfacciare con il commerciante. Non succederà niente di trascendentale, abbiamo detto anche l'altra volta, però ecco, concretamente, come si svolgerà una trattativa per portare a casa un acquisto? Sempre il benedetto televisore al plasma, ormai è sempre l'oggetto della nostra discussione. Vado dal commerciante a partire dal 5 luglio, mi voglio fare questo bel regalo, vado da lui, banalmente che cosa succede? Gli devo consegnare il codice fiscale, che cosa ne fa il commerciante? A chi deve trasferire questi dati che raccoglie dai suoi acquirenti, dai suoi clienti, e quando soprattutto deve fare questo trasferimento di dati? Nicola Forte, sì, eccolo qua. Non solo di indicare il codice fiscale, ma essendo un soggetto privato, quindi non in possesso della partita IVA e quindi un'operazione per la quale non è obbligatoria l'emissione della fattura, dovrò comunicare anche tutti i miei dati anagrafici. Non è obbligatoria la verifica di questi dati, ma si ritiene che l'obbligo di fornire al commerciante questi dati sia proprio finalizzata a consentire al commerciante medesimo un'identificazione del soggetto acquirente. Questi dati potranno essere acquisiti tramite l'esibizione della tessera sanitaria, ovvero conservando una copia di un documento valido di riconoscimento. Peraltro l'acquisizione di questo esemplare non è obbligatorio, ma è fortemente consigliato, anche perché se nella comunicazione risultassero dati non corretti ne risponderà in primo luogo il commerciante. Allora andiamo, sono indecisa fra un sms, una mail e una telefonata. Andiamo con la telefonata di Paolo dalla provincia di Lucca, che saluto. Paolo, buongiorno. Buongiorno. Dunque la mia domanda è breve e concisa. Allora, se sposa mio figlio, più parenti, mettiamo insieme dei soldi per l'acquisto, non so, di una cucina composta, quindi diventa una spesa unica. Certo, allora magari l'acquisto lo fa suo fratello, quindi, sì. Non ho capito dove vuole arrivare. Si propone eventualmente al pagamento, all'eventuale controllo, come funziona? Paolo, bella domanda anche questa, adesso ci lascio riflettere un po' Giovanni Valcarenghi e li rispondiamo dopo, se sono pronti i suggerimenti per chi è in viaggio tra poco. Allora, Giovanni Valcarenghi, ha sentito cosa ci ha raccontato Paolo da Lucca? Lui dice, insomma, si sposa mio figlio oppure mi si sposa un nipote, siamo in 5 fratelli, mettiamo insieme tutto il denaro per fare un regalo a questa persona, a questa coppia. Naturalmente una sola persona dovrà incaricarsi dell'acquisto e quindi pagarlo, e magari ad una sola persona, come dire, sarà intestato tutto l'importo, ma se questa persona ha magari un reddito coerente potrà spiegare qual è, come dire, l'origine dell'operazione, non credo che ci saranno dei problemi, no? Infatti diciamo che lo spesometro non scoraggerà la possibilità di fare dei regali al figlio che si sposa. Ci anche. Manchi pure che abbia l'obiettivo di scoraggiare i consumi che già nel nostro paese, insomma, vivono lo stato di difficoltà che vivono. Ecco, io terrei proprio distinto, perché credo sia importante nel ragionamento il problema della possibile segnalazione dell'anomalia con quello della giustificazione con l'ufficio. In questo momento abbiamo un regalo, si evocava una cucina, forse, se non ho capito male, la spendita di un determinato ammontare di denaro. Se io eventualmente convocato dal fisco fossi chiamato a rispondere di questa anomalia ed ho la possibilità di dire che ho speso dei quattrini che derivano dal fatto che più persone me li hanno dati per fare un regalo comune, l'anomalia scompare di per sé. Quindi da un possibile anomalismo, da un'anomalia che nasce da automatismo, dalla segnalazione che fa il commerciante, non devo aver timore, perché io quell'anomalia la posso tranquillamente giustificare nei confronti di una eventuale convocazione del fisco. Allora, c'è un ascoltatore che ci chiede, queste norme sono retroattive, cioè una spesa deve essere giustificabile anche se fatta 4 anni fa. Marco Bellinazzo, non mi pare proprio, qui guardiamo dal 1 luglio in avanti, se non addirittura ancora oltre, se ci saranno anche altre modifiche, ma vedremo. Si tratta evidentemente di controlli che partiranno da quando, insomma, sono assolutamente non retroattivi. Come per tutte le norme, naturalmente. Allora, Nicola Forte, c'è un altro aspetto. Noi continuiamo a parlare del televisore, dei gioielli, adesso della cucina da regalare a questa coppia di sposi, appunto, che naturalmente speriamo si sposi in tutta tranquillità e che i parenti possano fare i regali senza alcun problema, ma ci sono anche, come dire, c'è un'altra rosa, un altro ordine di spese che è abbastanza frequente sostenere e che per esempio sono quelle spese ai professionisti. Devo pagare il commercialista e annualmente la parcella è un po' più alta appunto di questa soglia. Evidentemente se questa parcella pagata al commercialista o al muratore che magari ci fa dei lavori in casa è un po' più alta rispetto al reddito che percepisco, anche in questo caso siamo passibili appunto di controllo dall'amministrazione fiscale? Il rischio della segnalazione c'è, logicamente la sede del contraddittorio, come è stato poc'anzi specificato, è la sede opportuna dove fornire tutte le puntualizzazioni del caso. È bene però ricordare che lo strumento di accertamento sostanzialmente funziona per le spese sostenute nella qualità di soggetti privati, nel senso che si tratta lo spesometro di uno strumento di raccolta di informazioni finalizzata all'accertamento cosiddetto sintetico che riguarda il tenore di vita del contribuente, tenore di vita che è collegabile all'attività eventualmente professionale di impresa svolta, ma sostanzialmente vengono monitorate le spese sostenute nella qualità di soggetti privati, cioè al di fuori della propria attività professionale. Quindi se in sostanza io ho sostenuto una spesa per il rifacimento degli impianti dello studio, e allora è un discorso, mentre se ho sostenuto quella spesa per il rifacimento degli impianti della mia abitazione personale, allora effettivamente il rischio c'è. Allora, vedo molti messaggi anche degli ascoltatori, adesso speriamo di poterne recuperare qualcuno al telefono, che ci pongono proprio il caso, credo, più diffuso che si può presentare, quello della ristrutturazione dell'abitazione. Chiaramente sono delle spese molto importanti, ad ogni la fornitura nuova del parquet, per esempio, è chiaro che porta a spendere una cifra molto più elevata, e magari molti dicono, insomma, sono lavori che mi posso permettere di fare perché ho risparmiato negli ultimi anni, anche se effettivamente sono un pensionato, faccio un caso limite, ma insomma io ribadisco, come hanno già fatto i nostri ospiti, non sono queste le persone che devono temere. Il fatto di avere un risparmio accantonato lo si può dimostrare, a meno che non abbiate sotto il materasso, e allora lì è un altro paio di maniche, ma credo che anche il risparmio si possa certificare in tutta tranquillità e nessuno avrà niente da ridire. Giovanni Valcarenghi, vogliamo di nuovo rassicurare un po' gli animi dei nostri contribuenti che a questo punto tutti si ritengono sotto il possibile mirino del fisco? Sì, li voglio tranquillizzare con una sorta di provocazione. Già nel passato l'amministrazione conosceva, perché noi stessi comunicavamo al fisco, l'ammontare delle spese per ristrutturazione che avevamo fatto, perché le esponevamo nel quadro RP del modello unico per godere del vantaggio fiscale, e in caso di accertamento anche quelle erano delle spese che erano già manifeste agli occhi dell'amministrazione. Quindi non cambia assolutamente nulla tra il passato e l'avvio del nuovo procedimento per questa tipologia di spese. L'importante è avere una giustificazione. E infatti, tra l'altro, a proposito della ristrutturazione della casa che ho descritto poco fa, era già pronta anche Giusi dalla provincia di Monza e Brianza, che non avevo fatto in tempo a sentire, ma ribadiamo anche questo caso che può magari essere così giudicato emblematico un po' per tutti i nostri ascoltatori. Giusi, buongiorno. Buongiorno. Io mi pongo questo problema perché sono una persona di 60 anni, non ho mai attraversato l'oceano, non ho mai fatto viaggi importanti, ma proprio partendo forse da luglio ho in mente di ristrutturare la casa della mia mamma, ma non però vorrei solo cambiare i mobili, eccetera. Questo, che oltretutto mi sembra un gesto anche di buona volontà, potrebbe crearmi dei problemi? Assolutamente no, Giusi, lei potrà continuare a fare tranquillamente tutti i suoi, portare a termine il suo progetto di sistemazione della sua casa. Nicola Forte, che cosa deve temere Giusi? Se non ha rapinato la banca, ovviamente, per fare questi lavori, penso che possa essere assolutamente tranquilla. Assolutamente, può dormire sogni tranquilli, dimostrando che quelle spese sono poi state sostenute grazie anche alla capacità di accumulo nel corso degli anni passati. Non avendo sostenuto spese negli anni passati spese di ingente ammontare, non sarà difficile dimostrare che il saldo sul conto corrente anno per anno è cresciuto e quindi si è avuta tranquillamente la possibilità di finanziare quelle spese. Tra l'altro, questo strumento potrebbe anche incidere radicalmente sulle modalità di sostenimento delle spese. Supponiamo il caso, ad esempio, di un contribuente che intende acquistare un immobile. Se l'immobile costa 600.000 euro, dovrà giustificare il sostenimento in un'unica soluzione di questa spesa. Se parte di quell'acquisto sarà finanziato con un contratto di mutuo con rate annuali di 20.000 euro, dovrà semplicemente dimostrare una capacità di spesa di 20.000 euro l'anno. E quindi questo potrebbe indirizzare i consumatori finali, i contribuenti, a effettuare delle scelte anziché delle altre. Nicola Forte, rimango un attimo da lei, ritornando al famoso commerciante che ci deve chiedere per acquisti superiori ai 3.600 euro, tra l'altro 3.000 più IVA, no? Se non ricordo male, questo è il limite della spesa. Se non ci chiede il codice fiscale e quindi in qualche maniera non ottempera alle disposizioni del provvedimento, a che tipo di provvedimenti o sanzioni può essere sottoposto il commerciante che non si comporta secondo quanto le regole dello spesometro indicano? Si tratta di un'omissione riguardante un adempimento concernente una comunicazione, quindi in caso di omissione rischia l'irrogazione di una sanzione amministrativa che è pari a un minimo di 258 euro con un massimo poco oltre 2.000 euro, quindi essenzialmente una sanzione di tipo amministrativo. Stavo cercando intanto tra le altre sollecitazioni dei nostri ascoltatori altri casi che magari possono interessare un po' tutti, perché Marco Bellinazzo, parlavamo prima del professionista, io ho parlato del muratore che ci rifà magari il bagno, piuttosto che il commercialista se ci serve una consulenza di natura fiscale, ma chiaramente qua sta lampeggiando sul nostro 349-238-6666 anche la parola dentista. Beh, è chiaro che, guarda, io credo che bisogna tranquillizzare, ma allo stesso tempo, ripeto, responsabilizzare anche un po'. Responsabilizzare, ecco, diventa fondamentale conservare tutti i documenti e soprattutto è un invito che rivolgo agli uffici dell'Agenzia delle Entrate, è quello di, nell'ambito del contraddittorio che diventa, come abbiamo ascoltato, fondamentale, di avere un atteggiamento, diciamo, comprensivo, ma dai vertici dell'agenzia questo invito è stato più volte lanciato, l'esperienza magari degli studi di settore non è proprio incoraggiante, mi auguro che si apra una nuova stagione più conciliante nei rapporti tra fisco e contribuente. Allora, vediamo un po' intanto, tra l'altro ho visto nelle precisazioni che l'Agenzia delle Entrate ha fatto relativamente anche allo slittamento dei termini per l'entrata in vigore dello spesometro al 1 luglio, tutta della serie di precisazioni per esempio acquirenti stranieri che vengono nel nostro paese. Nicola Forte, ci sono delle precisazioni da fare anche in questo senso. Gaetano da Lucca ci scrive: ma se io invece compro l'auto all'estero, in questo caso può, come dire, gabbare un po' le norme dello spesometro? Sfuggire? Se il soggetto interessato acquista un'autovettura all'estero, è chiaro che un equivalente adempimento per il soggetto rivenditore non residente non è previsto, però ci sono altri strumenti di controllo che sono finalizzati a monitorare i flussi di denaro da e verso l'estero. Ad esempio, abbiamo il cosiddetto quadro W, se io effetto, non è questo il caso ovviamente dell'acquisto di un'autovettura, un investimento all'estero, questo investimento è esistente alla data del 31 dicembre, dovrò darne indicazione in un altro quadro, appunto, che è il quadro W, quindi esistono strumenti alternativi e comunque efficaci per monitorare questi flussi di denaro che vanno e vengono. Che hanno altre direzioni. Allora, l'ultima domanda la concedo a Luigi da Pordenone, che saluto. Luigi, rapidissimo, se ce la fa, buona giornata. Sì, salve. Niente, volevo porre due quesiti. Il primo, velocemente, se vado in agenzia di viaggi, prenoto un viaggio per me e la moglie, sì, devo farmi fare due fatture, una per me e una per la moglie, oppure un'unica fattura? Penso che perché? Per sfuggire al controllo eventuale, no, Luigi, so, poi se lei l'ha pagato con il suo denaro, se ha un reddito che rende del tutto coerente, che con il quale si può permettere questo viaggio, non deve temere niente, Luigi. Sì, d'accordo, ma voglio dire, per rientrare nella denuncia dello spesometro, io devo farmi fare due pratiche, una per la moglie e una per me, o semplicemente una pratica anche se supera i 3.500-4.000 quelli che sono? Luigi, Valcarenghi, allora, mi sente in 30 secondi, 30 secondi perché devo chiudere. Dal punto di vista tecnico è sufficiente una unica fattura. Se si vuole abbassare il limite al di sotto dei 3.600 euro, è possibile fare due ordini, due viaggi, quindi due operazioni sotto soglia, non verrà segnalato. Ma credo che sia un timore che insomma non giustifichi neanche questo doppio adempimento. Ma infatti, perché se uno poi... Vabbè, comunque, ci avremo modo sicuramente di ritornare diffusamente su questo tema a partire dal 1 luglio, se tutto partirà come previsto allo stato attuale, al netto di ulteriori invii. Grazie a Nicola Forte, Giovanni Valcarenghi, Marco Bellinazzo. Salva Danaio torna domani. Io vi auguro una buona giornata, ma non la scampate con me, perché purtroppo per voi stasera torno anche a Focus Economia alle 17:10. Buon pomeriggio a tutti.